se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi è il signore del nostro tempo? Vi siete mai domandati chi decida, chi stabilisca, chi misuri, chi dia ragione, qualità e profondità al vostro tempo? Pensate al tempo della vostra vita. Come dividete la vostra vita? Come classificate la vostra vita? In ragione di cosa voi date dei tempi che avete vissuto, passato, trascorso? Ma io, la più semplice delle maniere che trovo, ci ho pensato i pochi istanti che precedevano la sigla, è una prima fase della mia vita data dal tempo dalla nascita alla scuola elementare, forse anche alla scuola media. Eravamo bambini, da zero a bambino. Poi il tempo dell'adolescenza, quindi ginnasio, liceo, mettiamoci l'università, mettiamoci anche il militare. Fase di passaggio, secondo tempo, sono proprio delle macro divisioni. Poi cominciano i dolori. La terza fase del tempo non è più ascrivibile in un'unica qualità, è molto frastagliata. È il tempo del lavoro, è il tempo della famiglia, in cosa lo divido? Le donne conosciute prima della moglie che hai sposato, i figli, i datori di lavoro, potrebbe essere il signore del mio tempo, il datore di lavoro. Ho lavorato per 20 anni per la stessa azienda e poi gli ultimi 6 anni, 7 anni ho cambiato varie aziende. Mi sembra una delle possibili divisioni. Ma entriamo poi in merito alla divisione del tempo quotidiano. Quello era il macro tempo, il tempo per sommeline, il tempo della vita. Prendete un foglietto, provate a dividere la vostra vita per anni. Quanti anni è durata la prima fase? Da che anno a che anno? E qual è l'anno, non so, che la prima volta avete conosciuto l'amore, o la prima volta avete avuto una busta paga, o la prima volta vi è morta una persona cara? Queste sono le scansioni del tempo della vita. Poi c'è il tempo della giornata. Il tempo della giornata, ma penso che sia un po' più o meno uguale per tutti. C'è il tempo della sveglia, c'è il tempo del prepararsi, c'è il tempo dell'uscire, c'è il tempo dello spostamento, poi inizia la fase lunga, il tempo del lavoro, sempre uguale, rapporti, colleghi, telefonate, incazzature, soddisfazioni, ambizioni, il tempo del rientro. Specularmente assomiglia al tempo dell'uscita, solo che è in senso inverso, costellato da alcune necessarie commissioni. Poi il tempo nuovamente della casa. Il tempo della casa è distribuito in tempo della nutrizione, in tempo della socializzazione familiare, in tempo dell'oblio davanti alla televisione o davanti al computer, che si aprono infinità di sottotempi. Davanti al computer il tempo si moltiplica e si riaggrega nuovamente in tanti tempi possibili. Poi il tempo del sonno, il tempo del dovere coniugale, il tempo dell'insonnia, il tempo delle angosce, il tempo del riposo, il tempo dello stravaccamento. Altra suddivisione del tempo, sono un po' lungo, poi vi lascio pensare a voi. Il tempo e le stagioni. Le stagioni erano scandite da alcune arcaiche società, da alcuni rituali di passaggio stagionale legati alle fasi dell'asse terrestre, ai solstizi, agli equinozi, ai lavori della terra, alle liturgie, agli dei, alle ritualità, quello che volete voi. Oggi ci siamo lentamente persi tutto questo senso di imperio del tempo, quindi il signore del nostro tempo chi è? Non so, è mettere il naso fuori casa e accorgersi che già dai primi giorni di novembre ci sono gli alberi di Natale. Il mio figlio piccolo vorrebbe fare l'albero di Natale, mi dico, possiamo fare l'albero di Natale i primi di novembre? Si fa, io lo facevo a casa il 24 dicembre, qualcun altro lo fa il 21 dicembre, qualcun altro l'8, il giorno della Madonna, però mai i primi di novembre, eppure già siamo impregnati di Natale, il Natale deve ancora arrivare. Immaginate, arriverà il Natale, già saremo surclassati dai saldi perché arriveranno gli abiti primaverili. Gli abiti primaverili arriveranno insieme nei negozi giocattoli ai gadget carnevaleschi, che più o meno saranno le stesse cose. I residui di giocattoli di Natale, le ultime befane, andranno a unirsi insieme ai primi giocattolini per il carnevale. Il carnevale è già foriero della Pasqua, la Pasqua è già foriera della primavera, la primavera è già foriera delle vacanze d'estate. Che faremo quest'estate? Programmazione delle vacanze d'estate. Rapido bruciamento, le vacanze d'estate, si tornerà a casa e già nemmeno si è accorti che si è arrivati a settembre. Si comincia di nuovo, in attesa di cosa? In attesa del Natale, e si ricomincia. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Non ce la farò mai. Prenderò l'autobus al volo. Sono in un ritardo pazzesco. Devo timbrare il cartellino. Aspetta, come? Deve firmare, che la responsabilità è sua. Pena. C'è una pena, lei? No. Lei non pure c'è. No, neanche. Aspetta, come? Affirmo col sangue. Forza, Fantozzi! Su, che... Ci mancano appena 100 metri! E poi arriva. Su, forza, Fantozzi! Dai! Dai! Forza! Per Fantozzi non ci sono dubbi, per lui il signore del tempo è il mega direttore dell'azienda che gli impone di timbrare il cartellino, ma arriva sempre in ritardo, è sempre l'ultimo, perché ha una sorta di terrificante destino avverso. Il tempo è sempre nemico di Fantozzi, ha la nuvoletta dell'impiegato, il tempo anche in senso meteorologico, che gli fa piovere sulla testa quando altrove è sempre splendente il sole. Ma il nostro tempo è condizionato comunque da un signore del tempo di cui ci sfugge spesso l'identità, ci sfuggono le caratteristiche, lo subiamo, lo sentiamo con angoscia, ci lamentiamo di non avere mai tempo, siamo sempre stanchi, abbiamo sempre tante cose da fare, ma in realtà perdiamo anche un'infinità di tempo. E il tempo in questo momento mi impone di presentare già l'ospite che abbiamo al telefono, ci sta ascoltando e sarà la nostra guida questa mattina nella disperata ricerca di un signore del tempo, ammesso che ne esistano. Professor Giovanni Gasparini, buongiorno. Buongiorno e le saluto anch'io. Docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano, autore di Tempi e ritmi della società del 2000, edizioni Franco Angeli. È possibile, è folle, è un gesto di sconsiderata sfida all'ira degli dèi pensare che oggi sia possibile scendere a patti con un signore del tempo? Beh, anzitutto diciamo che insomma, lei mi ha un po' rubato il mestiere con tutte le cose che ha detto prima, ma ho molto apprezzato questa sua un po' angosciata. Ma è l'osservazione quotidiana che faccio della mia vita e del mio tempo, da tanto, da tanti anni. Nel libro c'è anche un piccolo pezzo, un percorso metropolitano che richiamava questa, la vita di un, non so se di un Fantozzi, di una persona di oggi, appunto, con tutti questi problemi. Ma penso la maggior parte degli esseri umani oggi faccia questo tipo di percorso quotidiano, penso. Sì, sì, infatti. Ma io dico, io fino a un po' di tempo fa sostenevo, io ho scritto moltissimo sul tempo, sostenevo che non c'è un unico signore del tempo. Rispetto alle società precedenti, noi abbiamo una molteplicità di signori, per così dire, o di piccoli signori del tempo, perché quello che è interessante nella nostra società, studiando appunto il tempo dal punto di vista sociale, sociologico, è il vedere che c'è una molteplicità di calendari e di orari a cui noi siamo sottoposti, a cui noi siamo condizionati e con cui cerchiamo di fare i conti. Infatti il calendario familiare, il calendario, cioè gli orari di lavoro, gli orari dei trasporti, gli orari del tempo libero e di tutti i nostri altri impegni. Quindi non c'è più in realtà un unico signore del tempo come si poteva dire fino a poco tempo fa, fino anche forse alle società industrializzate classiche, dove effettivamente il tempo dell'industria, il tempo del lavoro con il cartellino, con la sirena insomma della fabbrica era veramente l'unico signore. Però quest'ultimo libro, che fa seguito a molti altri, ad una passione che dura da più di 25 anni su questi temi, in questo ultimo libro io sostengo, cioè, io vedo insomma, che poi non è una scoperta così originale, ma che c'è una tendenza a riunificare un po' tutto questo attraverso la società della rete, cioè la società della rete, la network society, chiamiamola in tanti modi, che è la società post-industriale dopo il 2000 più o meno, insomma, tende sempre di più a imporsi, ad essere così presente con i suoi effetti globalizzanti e come dico io agglutinanti, cioè mette tutto insieme, per cui effettivamente attraverso una molteplicità di aspetti che riguardano tutti gli elementi della nostra vita privata e pubblica tende a condizionare. Però professore, il tempo agglutinato, diciamo, scusi. Prego. Queste novità che si sono ormai diffuse e diventate normalissime, cioè il computer, internet e il cellulare, ci condizionano continuamente nella nostra gestione del tempo. Ma sono, diciamo, degli strumenti di sollievo, quello che lei chiama il tempo agglutinato, è la possibilità di poter vivere contemporaneamente il multitask, come dicono. Sì, uno apre, fa una schermata, si trova davanti 40 messaggi più diversi, da quelli privati e quelli professionali, dalle cose che non gli interessano minimamente a cose, magari a degli amici che gli scrivono. Se, senz'altro c'è anche, chiaramente, io sono ovviamente, io dato che faccio anche di mestiere sociologo, non posso non essere a favore della modernità, cioè è chiaro, no, che abbiamo delle facilitazioni, ma abbiamo anche dei grossi rischi. Agglutinare tutto vuol dire perdere il senso della qualità, tutto è posto sullo stesso piano, così anche i programmi, i palinsesti televisivi, uno si guarda 3 ore di televisione, alla fine non sa più che cosa ha guardato, perché c'era dentro di tutto, dalla politica alle veline, dalle cose serie. Ma non è che l'uomo contemporaneo ha necessità ormai di vivere un tempo più esteso rispetto a quello che tradizionalmente veniva misurato, quindi nello spostamento in automobile bisogna telefonare, bisogna ascoltare della musica, seguire magari un programma radiofonico. Detto multitasking, come lo chiamano gli americani, cioè fare più cose contemporaneamente, sì, può essere un fatto positivo, soprattutto se tu sei in coda in autostrada, ti senti appunto la musica che cerca di calmarti, o fai anche altre, per la strada usi il tempo del camminare, lo usi per telefonare, ma certamente ci sono degli aspetti positivi, però c'è anche un'ansia da prestazione che può essere che può essere veramente negativa. Ricordo proprio un articolo sul Sole di domenica, di 2 o 3 domeniche fa, in cui parlava di quest'ansia di prestazione tremenda che si è impadronita di tutti gli abitanti di Shanghai in preparazione di questo evento che, se non sbaglio, sarà nel 2015, sì, l'esposizione, per cui ogni giorno controllano quello che hanno fatto, per cui vivono ossessionati dal tempo, quello che i francesi chiamano être malade du temps, essere malati di tempo, cioè non avere più neanche il controllo del proprio tempo. Io credo che questi rischi, anche proprio facendo il sociologo, facendo una soluzione sociologica, vanno considerati, perché veramente tutto quello che lei diceva prima, anche questa routine della giornata, eccetera, sì, d'accordo, però se noi non la facciamo, come dire, la facciamo attraversare da qualche valore, veramente siamo perduti, sia a livello individuale che a livello collettivo. Poi dopo uno dei valori naturalmente può scegliersi, non siamo nessuno. Vediamo se qualche ascoltatore già stanno cominciando a chiamare. 800 24 00 24, stiamo cercando di stabilire chi è il signore del nostro tempo. Il professor Gasparini ci ha detto che oggi abbiamo un'infinità, cioè una sorta di plurima gestione del nostro tempo, ma uno sarà più importante degli altri. Giulia da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Io ci sto pensando moltissimo in questi giorni a questo problema del tempo, perché ho compiuto gli anni, ho compiuto i 55. Sì. E insomma, dovrei sentirmi con tanti anni, no, sulle spalle. Invece, ma lasci perdere, ce l'ho anch'io 55, no, anni. No, passiamo questo. Li sento leggerissimi i miei anni. Ecco, cominciamo a capire, per sentirsi leggeri gli anni che uno ha sulle spalle, li suddivide, li frammenta, quindi li divide in tanti periodi. Come divide la sua vita? Periodo, vabbè, quello fino a 20 anni, dove ho vissuto in casa con la mia famiglia, mia sorella, poi mi sono sposata, fino a 30, è data in cui mi sono separata. E poi comincia la vita? Come? Poi comincia la vita, da 30 a 55? No, comincia, continua. Ah. Continua. Non può cominciare a 30, a 30 può solo continuare. Fino a 50 ho avuto proprio un taglio netto, perché mio figlio ha spiccato il volo, se n'è andato da casa. E per cui io ho sentito molto come data ferma nella mia vita questo periodo, perché proprio mancavano 3 giorni al mio compleanno, alla scadenza dei 50 anni, proprio quello sì ha segnato un vero cambiamento. Quindi diciamo il signore del suo tempo sono le frequentazioni affettive e relazionali, la famiglia, il primo marito, il figlio allevato e tirato su, il figlio che se ne va di casa, e nuovamente la ricerca di un altro signore del tempo che dovrà gestire il suo tempo da 55 in poi. Sì, ti rendi conto che alla fine tutto si mischia, perché ti sembra che finisca una tappa, ma ne comincia subito un'altra ancora più bella, e tutto quello. Beh, che quando finiscono le tappe finisce anche il tempo a disposizione, per fortuna. Grazie, Arrigo da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno, sono anch'io un 55enne, purtroppo non ho questa angoscia del tempo che passa, però pensavo a uno dei tanti signori del tempo, e dicevo alle vostre collaboratrici gentilissime, che anche anche lo Stato ci si mette, perché lo Stato ci chiede in anticipo di un anno quello che noi guadagneremo l'anno prossimo, cioè siamo proiettati in avanti anche col pagamento delle tasse. Ecco, questo sfasamento del tempo rispetto ai doveri. Io sono molto colpito quando il giorno del mio compleanno, il 17 agosto, vedo nelle vetrine, nei negozi via del Corso, le giacche di velluto, i pantaloni di fustagno, e mi viene una tristezza terribile. Altrettanto sarò colpito quando all'indomani della Befana già comincerò a vedere gli abitucci di cotone. Queste stagioni anticipate, lei le subisce in una certa maniera? Assolutamente, assolutamente, ma anche nell'alimentazione, dicevo, mangiamo sempre la frutta fuori stagione, è talmente bello mangiare le cose di stagione, invece abbiamo l'anguria in inverno, le arance d'estate e le mele tutto l'anno, cioè ci siamo complicati la vita noi, insomma. Questo sfasamento del tempo è un problema grosso, perché io vedo che anche i ragazzi giovani cominciano a subire. Sono solito dire in questo periodo lo vorrei saltare pari pari, no? Perché è un periodo. Però teniamoci bene a mente, Arrigo, che secondo me, poi mi confermerà il professor Gasparini se è d'accordo, se non è d'accordo, il tempo cambia anche nella sua qualità. La qualità del tempo che viviamo in questa epoca è una qualità del tempo non determinata da un signore del tempo che è il custode dei campi, i frutti della stagione, è qualcos'altro. Matteo da Bergamo. Salve. Io volevo semplicemente introdurre questo concetto, cioè che secondo me è importante anche considerare, oltre al tempo, come dire, terreno, anche il tempo dopo, diciamo, la nostra vita. Però quindi, non lo chiameremo più tempo, non abbiamo metri per misurarlo in quanto umani. Perché in questo modo il tempo terreno viene percepito in maniera totalmente diversa. Sì, quindi, una visione metafisica quanto mai rispettabile, auspicabile, dà qualità al tempo che viviamo, ma il senso proprio del post mortem è quello che sparisce la cognizione del tempo come l'abbiamo adesso noi. Noi siamo determinati da una circostanza terrena, che è altra cosa, no? Senza dubbio, però la qualità di questo tempo e anche il senso di questo tempo viene, diciamo, profondamente modificato se uno si considera all'interno della sua vita anche. Ah certo, su una visione religiosa della vita, passa questo tempo nel meditare, nel fare opere buone, nel fustigare la propria carne, pensando che in realtà è soltanto un passaggio, rispettabilissima operazione. Chi pensa che il tempo fugge a una visione epicurea della vita e pensa che in realtà dopo non ci sarà nulla, soddisfa la piacevolezza che danno i sensi, la carne e la condizione umana il più possibile. Chi è dannatamente ossessionato dal tempo che scorre, non so, si preoccupa di accumulare beni, si preoccupa di fare tante altre cose. Ognuno, a seconda della propria visione esistenziale, dà una qualità diversa a questo tempo. Professor Gasparini, rispetto alle telefonate, cominciamo ad entrare un po' a qualche riflessione. Sì, ma mi sembra che soprattutto le prime due telefonate, anche quello che diceva lei, riportino al problema della natura, a cui ho dedicato un capitolo, e cioè il problema che il rimpianto della natura. Ma in questo senso, che noi siamo esseri naturali, no? E quindi abbiamo anche una cronobiologia, come una nuova scienza che da pochi decenni ci ha insegnato che tutto il nostro organismo risente di tempi che sono quelli della nostra stessa fisicità, ma anche che sono quelli legati all'universo, il fatto che il sole nasce e poi tramonta. Quindi voglio dire, lo dico per le stagioni, il fatto di non rispettare le stagioni, il fatto di non rispettare questi elementi cronobiologici che sono inseriti nel nostro organismo, porta a dei risultati che sì, possiamo anche affrontare, ma sono sicuramente forieri anche di aspetti negativi. Appunto, noi vediamo che appunto non c'è più risentire le stagioni, oppure noi possiamo lavorare di notte anziché di giorno, ma questo ha dei costi in termini di quello che è il nostro fisico. Noi siamo, come dicono i cronobiologi, dei mammiferi diurni, non siamo dei mammiferi notturni. Non può esistere una possibilità e capacità di adattarci a questi nuovi ritmi. La nostra evoluzione non sta continuando, l'aspetto culturale che è così fortemente importante, oltre a quello naturale, non per farà sì che noi possiamo anche vivere felicemente questa condizione. Io non vedo l'ora che la famiglia vada a letto e che finalmente sono solo e silenzioso con il mio computer. Per me la giornata comincia in quel momento. un esercizio divertente, anche faticoso, quello che vi ho imposto questa mattina, di cercare il signore del vostro tempo. Poi vedo che sull'identità del signore del tempo ci sono pareri molto discordi. Elisa mi dice su Facebook: il tempo del lavoro per noi giovani assume un carattere agonistico, diverso da quello fantoziano. Non siamo più schiacciati dalle routine quotidiane sempre uguali in una vita di lavoro, siamo invece falsamente padroni del nostro tempo, mentre invece inseguiamo obiettivi e progetti decisi da altri che generano tensioni, ansie e conflitti continui. Sì, conosco il tempo del precario, il tempo del contratto che scade, il tempo dell'antagonismo fra i pochi posti a disposizione e i tanti che ambiscono ad entrarci. È un tempo abbastanza logorante. Io però non mi scandalizzo e non mi straccio le vesti di fronte al logorio della vita moderna, come diceva un vecchio carosello, perché fa parte del sapore della nostra quotidianità, del tempo in cui ci è dato di vivere, quindi dobbiamo prenderlo per quello che è. Non sono un nostalgico del calendario di Frate Indovino, di quel bel tempo fatto di luna piena, di luna nera, di travaso del vino, di mietitura, di ricette alla cucina. Sono per un tempo affastellato, arraffazzonato, agglutinato, come dice il professor Gasparini, che è il nostro ospite. Federico, belle le epigrafi delle meridiane, tipo ruit ora, fugit irreparabile tempus, che fanno memento temporis. Daniele mi dice: il tuo tempo è soggettivo, buon per te, un giorno forse scoprirai che il problema è proprio l'ampiezza, come hai scritto tu, forse un lapsus, non la qualità, che è quella che dà significato alla vita. Eh sì, la qualità del tempo. Sembra facile. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Non siamo padroni del nostro tempo, quando mai lo siamo stati? Io credo che il signore del mio tempo è il protocollo sociale da seguire, con le sue scadenze, i suoi percorsi, no? E dicevo, noi appena nasciamo abbiamo già un protocollo da seguire, per cui il tempo... Oddio, se ne può anche uscire, si vede un sacco di gente che dorme e fuma beata sotto i ponti. Nel quindi... cerchio della società, no? Se rimaniamo nel cerchio della società, comunque è dettato dalla società il nostro tempo, no? Perché io, anche se voglio andare al lavoro, il mio tempo è gestito dalla strada, dal traffico. Lei però, non so se mi ha mai ascoltato, spesso io parlo della possibilità di fughe domestiche. Le fughe domestiche non vanno interpretate soltanto come lussuriose digressioni dalla norma, ma semplicemente come fughe improvvise in cui ci si guadagna un tempo parallelo e si ritorna poi nel tempo consueto. E allora sì, se si può fare questo, se uno ha la possibilità di uscire da questo cerchio sociale... Non è che si va all'inferno se non lo fa, no, anzi, può farlo. Io consiglierei a tutti di farlo, anzi... Quindi ideale, questa mattina no? Stiamo definendo che al padrone del tempo si può ogni tanto farla in barba e infilarsi in dei tempi paralleli, purché si abbia la facilità e la capacità di ritornare nel tempo quotidiano, se no altrimenti diventa un'avventura probabilmente da trattare in altra sede. Franca da Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, io le telefono per dirle che il tempo proprio e ci crea questo inganno, per cui con il mio secondo marito c'è una differenza d'età di 24 anni, io ne ho 66 e lui 88, e il tempo me lo ha fatto sempre vedere bellissimo, giovane, interessato alla vita, e abbiamo vissuto bene e viviamo bene, e questo è il tempo che ci ha fatto vedere le cose in maniera diversa. Cioè, lei ha l'oggetto del suo affetto, della sua passione, spostato avanti di 25 anni. Esatto. Quindi sono due tempi diversi. Tutti contro, chiaramente. Sì, sì, vabbè, è banalmente percepibile che sono due tempi diversi. Più passa il tempo, più ci si accorge di questa differenza. È inutile esatto, prendersi in giro. Esatto, però si può vivere benissimo. Benissimo lo stesso, insomma. Sì, sì, 25 anni sono tanti, è una meraviglia quando una 25enne incontra un cinquantenne, esatto. È una piena illusione, altrettanto può essere bello quando dopo altri 20 anni il settantenne si trova con una 45enne, quando cominciamo ad andare ancora avanti, ahimè, il tempo diventa impietoso metro dei tempi paralleli che non scorrono mai assieme. Quindi cosa vuol dire in conclusione? Cosa aspetta altri 20 anni per vedere cosa? Non siamo noi a decidere. In qualche modo il tempo è giocato per noi. Va bene, buon divertimento. Antonello da Roma. Salve, buongiorno e pace bene a tutti. Io chiamo per... Cos'è, un frate lei? No, è un messaggio d'amore, no? Ah sì, no, non mi piace niente di male essere frati. Chiedevo. Io chiamavo per introdurre un discorso fatto da Roberto Re, che diciamo è uno dei più grandi personal coacher ora in Italia, e lui comunque sia concepisce il tempo non tanto a livello fisico quanto a livello biologico, cioè come noi lo andiamo a interpretare, e dice di fare attenzione a suddividere le cose veramente importanti dalle cose urgenti, che non sempre sono importanti, e dalle cose non urgenti e non importanti, quale può essere un hobby e uno spazio ricavato nella giornata per stare bene con noi stessi. Ecco, lui appunto dice che dividendo il tempo in queste tre fasce si riesce a essere più appagati la sera, perché lui deve... Sì, ma quando all'improvviso ti chiama la maestra a scuola che il bambino vomita o c'ha la febbre, le priorità sopravvengono alla qualità del tempo. È bello questo, sì, in teoria, ma la giornata ci dà un'infinità di contrattempi che si sovrappongono alla nostra scaletta delle priorità temporali. Beh, in questo caso il bambino che si sente male credo che venga nelle cose importanti, e quindi diciamo che prende tutta la priorità della persona interessata. Sì, ma non so, l'appuntamento col commercialista che ho io oggi a mezzogiorno, la casa a dover chiudere perché non ho le chiavi, tutta una serie di problemi che difficilmente mi riescono a far fare una scaletta delle cose da fare. Io evito di fare scalette quotidiane e mi lascio trascinare dalla scaletta che mi impongono gli eventi, ma anche questo forse è un atteggiamento di comodo. Giovanni Gasparini, torniamo a lei, autore di Tempi e ritmi della società del 2000, Franco Angeli, sociologo della Cattolica di Milano e analizzatore per passione, mi ha detto che parte cospicua del suo tempo l'ha passata a analizzare il tempo nella modernità, è vero? Sì, ma appunto ascoltavo questi interventi anche i suoi, effettivamente è un tema talmente vasto che non può essere certo risolto in una trasmissione radiofonica, ovviamente. Ma a me piace incasinare le idee agli altri, non mi piace chiarirle, quindi è ancora più complicato. Certo. No, dicevo, se posso dare due o tre piccolissimi messaggi vorrebbero essere questi, alla luce proprio delle cose che ho ascoltato con attenzione. Ecco, una prima cosa è questa: è vero che c'è la routine, ma noi possiamo cercare di giocare attraverso la creatività. Io credo che la stessa routine, come in fondo ci insegna il piccolo principe Pinocchio, che io non a caso ho ripreso in uno dei capitoli del mio libro, ci insegnano a vivere con creatività il tempo, ci danno degli spunti, degli elementi. Faccio delle applicazioni. Secondo me in questa realtà di oggi, che è diversa sia da quella di Pinocchio sia da quella del piccolo principe, però possiamo fare anche noi delle cose, cioè è vero che abbiamo dei condizionamenti, l'ho detto io stesso, la società di rete, tutti i condizionamenti molto forti che abbiamo, però possiamo cercare di fare dei piccoli gesti che io chiamerei mini rivoluzionari. Uno di questi è fare sosta, ogni tanto staccare il telefono, staccare il computer, staccare il cellulare e dedicarci soltanto appunto al nostro rapporto col tempo, con le cose profonde che ci interessano. A questo riguardo devo dire che sono i valori quelli che danno senso al tempo, non mi ricordo, anche alcuni interventi che l'hanno detto, insomma, quindi i valori che noi scegliamo nella nostra vita, sia pure con i condizionamenti che abbiamo, sono quelli che ci dovrebbero orientare. Quindi se il nostro valore è quello della qualità della vita, anziché quello, non so, di massimizzare il nostro benessere materiale, ecco che ne conseguono certe scelte riguardo al tempo. Un'altra indicazione può assomigliare al concetto, al mio concetto di fuga domestica. La fuga domestica è la ricerca di fessure aperte lungo il quotidiano da cui si entra e si esce, non ci si rimane ingabbiati. Io ho scritto un libro due anni fa sugli universi paralleli, per esempio quello dell'arte, quello del sogno, cioè tutti questi universi che poi dopo dai quali bisogna ritornare, ovviamente, se no si finisce per essere alienati, ma che sono forme importanti per valorizzare la qualità della vita. E un'ultima cosa che volevo, mi permetto di indicare, cioè proprio in questa società che ci porta ad una velocità spaventosa, ad un'accelerazione continua, ecco, io credo che se noi riuscissimo sia a livello individuale sia anche a livello collettivo, di piccoli gruppi, non so, di quartieri eccetera, a impostare un discorso di velocità scelta, cioè noi ci scegliamo delle velocità, noi ci ribelliamo in qualche modo, no? Naturalmente accettando pienamente la modernità, il computer, internet, tutto quello che vogliamo, però noi cerchiamo di dare la nostra vita una velocità che scegliamo noi, cioè diciamo no, noi non ci stiamo a questo tipo di velocità, vogliamo sceglierci una velocità che è la nostra, quindi mescolando la velocità della luce, alla quale ormai siamo abituati, alla lentezza, perché senza la lentezza lentezza non andiamo molto lontano. Facciamo questo è senz'altro giusto, professor Gasparini, però si renda conto che la psicologia del sorpasso, che ci ogni giorno ne abbiamo esempi davanti, perché la gente si incazza tanto ai semafori, perché si corre avanti, perché tutti hanno un ipotetico obiettivo da raggiungere nel più veloce tempo possibile. Chi riacquista la qualità del proprio tempo e acquista lentezza e si ferma, sa, deve sapere, deve mettere in conto che sarà comunque sorpassato. Se essere sorpassati non è un problema, non è qualcosa di radicalmente importante per la nostra vita, ben venga la lentezza. Melog 2.0. Addomesticami. Volentieri, ma non ho molto tempo. Però ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte, ma siccome non esistono mercanti amici, gli uomini non hanno più amici. Il professor Gasparini, che è il nostro ospite questa mattina, esperto, appassionato, studioso, temporizzatore e analista del tempo nella contemporaneità, ci ha posto due esempi per capire la qualità del tempo e la valutazione del tempo. E singolarmente sono due esempi di due personaggi di fantasia legati al mondo infantile apparentemente, ma in realtà sono due grandi testi di saggezza eterna che permettono il passaggio della conoscenza più profonda attraverso quella che comunemente viene chiamata letteratura per l'infanzia. Ma letteratura per l'infanzia non solamente è, uno è Il piccolo principe di Antoine Saint-Exupéry, che è un romanzo che segue di una sessantina d'anni circa, mi pare, quello che invece è una delle pietre miliari della mia formazione personale, che è Pinocchio. Aspettami! Pinocchio! Cos'è quel formaggio? M'hai sentito, brutto ladro sfacciato? Ora mi senti, sa? Ti insegno io se ti prendo, brutto ladro! Al ladro! Al ladro! Fermatelo! Fermo, siedi in arresto. Ma cosa fate? Il ladro è lui! Eccolo lì, quel bambino! Pinocchio! Professor Gasparini, le ho fatto sentire i suoi due esempi. Pinocchio è la dinamicità, è la corsa, è il cardiopalma, Il piccolo principe è la contemplazione, è la riflessione, non a caso sta nelle sfere celesti, mentre Pinocchio sta nella terra, calpesta la terra come noi mortali. Sì, diciamo che sono due personaggi straordinari, che possono, due libri che possono leggere anche i bambini, ma che si capiscono da grandi, diciamo. E sono paradossali perché uno, Pinocchio, è figlio di una società preindustriale, ma ci dà l'esempio della rapidità, della velocità. Velocità intesa un po' nel senso di Italo Calvino, cioè questa capacità di cogliere il reale in termini creativi. Infatti Pinocchio è un dissacratore della sua società per creare sempre cose nuove. Ci dà l'esempio. Infatti anche chi va molto veloce non può accontentarsi del mondo che lo circonda, già lo considera vecchio, già è uno straccio da buttare, già vede oltre. Cioè, più che altro è la velocità del poeta, è la velocità di chi coglie la bellezza della creatività che c'è nella vita. E quindi Pinocchio immagina un mondo diverso. Pinocchio corre per correre, non corre solo per sfuggire ai pericoli che spesso lo insidiano. Quindi secondo me è un esempio molto interessante di modernità, cioè di chi non si accontenta di ciò che c'è, ma che cerca un mondo nuovo. Mentre invece paradossalmente, noi sappiamo che Saint-Exupéry è stato un aviatore, quindi era ai suoi tempi, lui muore nel 1944 in missioni di volo, appunto, lui era, quindi, diciamo, usava già i mezzi della tecnologia più avanzati, ma continuamente richiama a quelli che sono un po' i limiti e i pericoli di questa società industrializzata. Infatti abbiamo sentito poco fa un passaggio, no, di Piccolo Principe, il capitolo 21, quello in cui proprio c'è questo insegnamento della volpe al Piccolo Principe, appunto, che l'essenziale invisibile agli occhi, che quello che conta è fermarsi per poter avere amici, che si diceva prima, velocità e lentezza. E credo che questi due personaggi straordinari ci dicono proprio da una parte e dall'altra, cioè cominciando da un punto o dall'altro, che sono la velocità e la lentezza, appunto, che dovremmo cercare di mettere insieme anche noi oggi, uomini del 2000, uomini e donne del 2000, no, questi due elementi, velocità e lentezza. Lei non trova un paradosso? La velocità, siamo tutti per la modernità, ovviamente. No? Sì, ma professor Gasparini, non trova paradossale, mi scusi, paradossale che questo secolo che è stato annunciato da un'avanguardia muscolosa e ammiratrice della velocità, l'automobile in corsa di Marinetti sembrava la cifra più esaltante, in realtà oggi viene considerato è un dato dell'esistenza molto basato a una lettura superficiale. Oggi chi è veloce è burino, per dirlo in un termine molto più calzante. La macchina veloce, l'automobile veloce, l'essere veloci corrisponde a una visione non di qualità della vita, mentre la lentezza, lo slow food, mangiare lentamente, cercare la qualità della vita, è un segno che distingue ciò che è positivo nella nostra epoca. Sì, diciamo che tutti e due, insomma, cioè, infatti io mi esprimevo nel senso di sottolineare i limiti della velocità, perché è imperante, cioè la velocità, la contemporaneizzazione delle esperienze, appunto ogni momento noi pensiamo di essere in grado di comunicare, di sapere quello che accade in ogni parte del mondo, quindi l'abolizione in fondo delle frontiere spazio-temporali che ci fa tende a farci dimenticare appunto l'importanza della lentezza, l'importanza, perché la lentezza è poi sinonimo, comunque allude alla qualità. E un'altra cosa importante è proprio il pacificarsi con i ritmi della natura, che sono ritmi lenti, natura non faccia il salto, cioè se uno si fa prendere soltanto dalla frenesia di questa società, magari non può farne a meno, perché se è precario purtroppo deve lottare, come dice lei, continuamente, ma questa è una delle piaghe più grandi della nostra società, però cercare di venire a patti, no, con questa società, cercare per esempio di ricollegarsi alla natura, ricollegarsi a certi ritmi, senza perdere nulla della modernità, perché noi non perdiamo niente della modernità facendo questo, però credo che questo mix, questo cercare una velocità scelta, no, che quindi un equilibrio fra i tempi personali e i tempi collettivi, ben sapendo che tanti ritmi sono imposti, non possiamo, se il bambino sta male a scuola devo precipitarmi, se c'è un'emergenza devo andare, se ho un orario di lavoro non posso farne meno, chiaramente, no? Però in tutto questo di ricercare ugualmente degli spazi di creatività e anche di lentezza, o comunque di sosta, credo che sia una cosa benefica e importante. Sentiamo Vittorio da Como. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Chi è il signore del suo tempo? Io vorrei stabilire innanzitutto che il tempo è stato creato dall'uomo proprio perché non ha una vita così eterna, ha una vita breve, e di conseguenza cerca di scandire proprio il tempo in modo tale da poter poi far lasciare qualche cosa agli altri del nostro passaggio. Ora è Ma vero io penso che l'uomo guardando ogni tanto che cambiava il colore del cielo, cambiava l'ordine delle stelle, ha detto ma forse questo ha un significato anche sulla mia vita, esatto. E si è un po' lasciato seguire la scansione del tempo cosmico. Poi dopo c'è un tempo profano, quotidiano, fatto di appuntamenti, di orari d'ufficio, di orari di palestra, che è chiaramente quello che ci imponiamo ogni giorno noi. Ma come ci diceva il professore, ahimè, un tempo della natura esiste, un ritmo del tempo della natura esiste, indubbiamente. Possiamo riconoscerlo o no, seguirlo o no. Lei invece dice che il padrone del suo tempo, il signore del suo tempo non esiste, ma lei è il signore del suo tempo. Io desidero essere il padrone del mio tempo con molta difficoltà, anche per una ragione, perché ci sono due modi di poter vivere il tempo, uno subendolo e l'altro invece accettandolo ed usandolo nel modo più corretto e adeguato. Ora ok, facile a dirlo, molto meno facile poi a metterlo in pratica, ma il tempo è finito, me lo dice la sigla che arriva. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.